Domenica scorsa, per vari motivi, non ho avuto modo di comunicarvi il mio pensiero a proposito della sentenza con cui la Corte d'Appello Militare 9 giorni fa ha condannato l'ergastolo Erich Priebke e Karl Haas in quanto responsabili della strage delle Fosse Ardeatine. Ma visto che i commenti e le polemiche su questo pronunciamento, dopo aver fatto notizia per non più di un paio di giorni, sono prontamente spariti dai media, e che un silenzio, saperlo leggere, altrettanto eloquente di un milione di parole, mi permetterò di tornare sull'argomento scusandomi per il ritardo. E lo faccio, vi dirò, con una certa esitazione. Io non vorrei sembrarvi il solito bastian contrario, come mi chiamava la mia povera nonna, o come più probabilmente mi definireste voi, un eterno spaccapalle, ma io, per quella sentenza, io non sono riuscito a entusiasmarmi. E non perché dubiti del fatto che Priebke e il suo socio meritano uno, ma due, tre o quanti più ergastoli sia possibile infliggergli. Il giudizio definitivo sulla loro colpevolezza, in fondo, è stato pronunciato da tempo. E l'unico problema della Corte d'Appello Militare di Roma era quello di decidere come punirli, ed è appunto qui che nascono dei problemi. Vedete, io sono contrario all'ergastolo. Io non mi sembra in contraddizione con l'articolo 27 della Costituzione, secondo cui non ci piove, le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. E mi ricordo di aver votato per la sua abolizione quando la proposta di abolirlo fu sottoposta invano a referendum popolare. Il fatto che con me allora abbiano votato forze e individui che adesso accolgono una condanna all'ergastolo con giubilo mi sembra, se è lecito dirlo, piuttosto strano. Io so che molti hanno cercato di evitare la contraddizione affermando che il problema era quello di affermare un principio, quello per cui di certe responsabilità non ci si può liberare tanto facilmente, e che una volta affermato il principio, sulle conseguenze pratiche, cioè sull'effettivo incarceramento a vita dei due criminali, si può anche sorvolare, concedendo loro un perdono motivato dalla loro età avanzata, se non rispettabile. Ora, è vero che rinchiudere in carcere due uomini di quell'età significa correre il rischio di doverli accudire e che di fronte alla prospettiva uno può proferire che alla punizione provvedano in via ordinaria l'arteriosclerosi e la demenza senilis, ma il ragionamento sul piano teorico non regge. A parte il fatto che anche chi sostiene che non si deve condannare nessuno all'ergastolo lo fa per affermare un principio, mi sembra che l'ipotesi di condannare qualcuno sul piano teorico per perdonarlo poi su quello pratico non rappresenti il massimo della coerenza giuridica, e non per niente sull'ipotesi del perdono per raggiunti limiti d'età, che quando era stata avanzata a processo in corso non aveva suscitato commenti, e molti a sentenza acquisita hanno fatto violentemente obiezione. Il dibattito, a quanto mi risulta, è stato soprattutto interno alla comunità ebraica di Roma, ma visto che le Fosse Ardeatine non riguardano esclusivamente la comunità ebraica di Roma, mi piacerebbe sapere cosa ne pensino coloro a cui è dato rappresentare l'intera comunità nazionale. E poi ci sono tante altre cose sgradevoli in quel processo. Che volete? A me non piace l'idea di 3 sentenze diverse in 2 anni. Non perché i giudici non possano cambiare idea o riformare le sentenze di altri giudici, figuriamoci, ma perché 3 sentenze discordanti, praticamente contraddittorie, senza che tra una e l'altra siano stati acquisiti particolari elementi di novità, significano come minimo un dubbio. E in dubbio la dottrina ci impone di essere sempre pro reo, anche quando il reo, ahimè, è un criminale nazista. E vorrei tanto che qualcuno mi spiegasse in modo comprensibile la storia del maggiore Karl Haas. Se la memoria non mi inganno, era venuto in Italia di propria volontà e a piede libero per testimoniare al primo processo Priebke. Poi aveva cambiato idea e, anche se era a piede libero, aveva cercato di fuggire dalla finestra di un albergo in cui non era detenuto e da cui avrebbe potuto benissimo uscire dalla porta, in teoria. E soltanto dopo questa strana tentata fuga in cui si era malamente azzoppato è stato associato a Priebke come imputato. È una storia che nessuno proprio ha ancora spiegato, che mi sembra confermare quelle voci che vogliono Haas in rapporto con qualche servizio segreto, e che cosa cavolo c'entrano i servizi segreti con la verità storica e con l'esercizio della giustizia, continuiamo a chiedercelo da un bel po' di tempo. E i servizi segreti a parte, avete notato che le mie obiezioni sono tipiche manifestazioni di quello che una volta, con un termine che non sono mai riuscito a considerare complimentoso, si definiva il garantismo. Che volete che ci faccia? Il garantismo è una maledizione che mi porto dietro da sempre. Mi rendo conto che può sembrare un peccato sprecare le sue argomentazioni con certi brutti ceffi, ma è proprio con i brutti ceffi che bisogna andarci coi piedi di piombo. Il desiderio di fargli pagare le loro colpe può essere sfruttato da qualcuno per stabilire dei principi e dei precedenti che poi saranno tranquillamente utilizzati contro qualcun altro, di solito contro di noi. Ripensate, se non ci credete, a tutta la storia della legislazione d'emergenza. O se la memoria non vi soccorre così a lungo, ripensate soltanto al processo a Sofri Bonpressi e Pietro Stefani. Anche nel loro caso era stato detto che vi si poteva condannare benissimo, tanto dopo vi si sarebbe graziati. Il ragionamento mi sembra sia stato impiegato da un magistrato togato per convincere alla condanna certi giurati riluttanti, che è un episodio che all'epoca non mi era sembrato tanto bello. E anche nel loro caso, più sentenze contraddittorie una di fila all'altra esprimono chiaramente un dubbio che alla faccia di tutti i principi giuridici non è stato capitalizzato a vantaggio degli imputati. Naturalmente i due processi non hanno niente in comune, nessuno potrebbe paragonare neppure lontanamente le personalità dei rispettivi imputati, ma appunto per questo il fatto che vi si possano trovare certe sia pur deboli analogie non mi sembra indegno d'interesse.